Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Bentornati su Basement Records, grande puntata speciale di sabato sera con Basement Record, con questa sigla veramente psichedelica, questo pezzo pazzo di Pierre Henry con il suo progetto Lesic Per Sound, e poi molti anni dopo, se l'avrete riconosciuta, è diventata la sigla di Futurama di Matt Groening, poi sì, un po' rimaneggiata, però sì, un po' semplificata, sembra un po', però ecco, il pezzo originale era questo vinile del 1968 che, se ci avete seguito nelle due puntate precedenti, abbiamo eletto come nostra sigla come ufficiale. Nostra sigla. Ma come partiamo per questa nuova stagione di Basement Records? Allora, ricordiamo un po' diciamo come funziona la nostra trasmissione. Mettiamo solo vinili e solo 45 giri. E esattamente, vinili 45 giri ritrovati casualmente. In questo caso è andata abbastanza bene, perché l'ho ritrovato in un... nello scantinato di un intenditore, diciamo. Un saluto a Stefanone, infatti, se ci sta ascoltando, un ringraziamento. Un grande DJ della radio, di una radio fiorentina. Di Radio One, negli anni 70 e 80. E quindi questi sono i ritrovamenti dello scantinato di Stefanone. Volevamo farvi sentire appunto un po' cosa andava nelle radio in quegli anni là, un occhio al triennio più che altro 69 fino al 72, anche se ci sarà qualche eccezione. Cioè, sì, un po' prima, qualche anno prima, qualche anno dopo, però più o meno siamo... Il succo è di quel triennio lì. Ma ricordiamo i nostri contatti? I nostri contatti, che sono il nostro sito, che è wombat.noblogs.org, il nostro Twitter, Radio Wombat Fi. Poi abbiamo la nostra casella di posta wombat@insiberia.net. E la nostra pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze. Bene. Io partirei subito. Partiamo subito con il primo disco. E quindi subito con la prima eccezione, perché come primo disco metterò un disco del 1974, per l'esattezza di Mac Davis, e questa è One Hell of a Woman. E Mac Davis è stato un personaggio particolare, perché innanzitutto è stato uno dei compositori, uno tra i tanti compositori dell'inizio della carriera di Elvis. Ha scritto per lui un po' di successi iniziali della sua carriera, e poi invece ha deciso anche di iniziare a incidere anche lavori a proprio nome a metà degli anni 70, e questo ne è uno degli esempi, che poi tra l'altro è anche riuscito a entrare nella classifica americana, è arrivato fino all'undicesimo posto nel 1974, e questo è Mac Davis con One Hell of a Woman. bel lentone da struscio, eh? Sì, come inizio siamo stati un po'... Dai, siamo stati dolcissimi come inizio. Molto dolci, per non, sì. Per non... Per rendere migliore possibile il ritorno di questa nuova stagione di Basement Records. E andiamo avanti con il prossimo brano che... A questo punto mettere dopo, diamo un po' di movimento dopo, diamo, sennò dopo... Sì, sì, sporchiamo un po' questi suoni. Glicemia 2000. Direi di andare su un bel funkettone nero di quelli ignoranti, che questo è veramente un discone dei Tower of Power, che sono stati uno dei gruppi funk neri per eccellenza. E questo è un disco del 1972, Skating on a Thin Ice. I Tower of Power sono stati veramente una band fondamentale per l'evoluzione del funk nero, insieme a George Clinton, ai Parliament, a tantissimi altri di quel periodo degli anni 70. E hanno militato tantissimi musicisti nei Tower of Power e soprattutto tantissimi cantanti, perché il nocciolo storico erano i grandi strumentisti che c'erano dietro, però i cantanti hanno girato abbastanza e qualcuno... che hanno avuto un po' di vicissitudini un po' particolari. Sì, sì, ci ha avuto anche un po' di... Tipo, non mi ricordo come si chiama, ma uno dei cantanti dei Tower of Power, che tra l'altro credo sia proprio il cantante di questo singolo, di questo 45, era stato anche accusato e condannato per un pluriomicidio. All'ergastolo. Sì, è pluriomicidio, se ti condannano mi sa che un bel pezzo ci stai, sì, dentro. E questo è un singolo estratto dal loro secondo album del 1972, che si chiamava Bump City. E questa è Skating on a Thin Ice dei Tower of Power. We'll be right back. E questi erano i Tower of Power con Skating on Thin Ice. E il prossimo andrei su un'altra eccezione, visto che ormai siamo partiti. Siamo più eccezioni che regole. Vabbè, questo però invece di essere dopo è un'eccezione del prima, perché è un 45 del 1967 di un organista belga, pensa un po', che si chiama André Brasseur. E questo disco, questo 45 sul lato A, è quello che ci ascolteremo a breve, è Waiting for You, del 1967 appunto. Ma facendo un rimando e un saluto a Soul Time, André Brasseur è stato più che altro conosciuto tra i cultori del Northern Soul, perché con il suo singolo The Kid, è stato veramente un cult, uno di quei dischi di cui coprivano l'etichetta con lo scotch, al Twisted Wheel di Manchester, una delle discoteche non famose come quella, come il Wigan Casino o il Golden Flame, però insomma anche il Twisted Wheel era molto famoso nel periodo del Northern Soul. E adesso lui è stato anche famoso precedentemente, nel 1965, l'altro, con un brano strumentale, Early Bird, nominato così proprio per il nome del satellite che fu lanciato nel 1965. Sì. E questo disco vendette tipo 6 milioni di copie in tutto, insomma, il mondo. Quindi non solo uno, famoso per il Northern Soul, direi. Diciamo, per uno quasi anche sconosciuto, un belga che si lancia nel mercato mondiale e che vende milioni di copie, non è una cosa tanto copie, non è una cosa tanto comune, ecco. E questo, allora, sentiamoci André Brasseur con Waiting for You, 1967, Radio Wombat. Waiting for you and all my nights alone. Questo era il belga André Brasser dal 1972 con Waiting for You. E il prossimo? Il prossimo è un cantautore, un rocker inglese che si chiama Chris Hodge, scoperto da Ringo Starr. E tra l'altro l'ha anche portato e poi fatto pubblicare, con l'etichetta dei Beatles, la famosa mela, che poi ha ripreso anche qualche d'un altro, se non mi sbaglio, sì. Con qualche modifica, qualche pezzettino, però morso qua, morso di là. Lui ha fatto questo album, appunto, fatto produrre da Ringo Starr, e poi altri singoli ha che avuto non hanno anche avuto un altro po' di successo su, sì, qualche cosina. Una vita breve, però vita breve nel senso musicale, no? Sì, sì, sì, no. È stato un po' una meteora scoperta dal batterista dei Beatles. Facciamo sentire tutte e due, entrambi i lati. Secondo me ne vale la pena, sì, di farle sentire tutte e due, perché sono veramente carine. Lui è, appunto, è stato veramente una meteora degli anni 70, degli inizi degli anni 70. Questo è un disco del 72. Sì. E secondo me può valere la pena, allora, fare mettiamo sentire tutti e due i lati. Mettiamo, il primo è Super Soul. Prima lo metterei subito Super Soul, e poi il tempo di girare il vinile sul piatto e vi faremo ascoltare anche il lato B, che ne vale anche il lato B, eh? Bene, bene. Buono. Allora andiamo con Chris Hodge, Super Soul, qui su Radio Wombat. Era un grande Super Soul di Chris Hodge, E intanto, mentre giriamo pagina, giriamo il disco, vi ricordo qualche appuntamento per ottobre qui a Firenze. Da segnalare il 13 ottobre, il compleanno della Svolta, al CSA Next Emerson in via di Bellagio, che mi sembra che compiano 11 anni. 11. Grande seratone, eh? Grande serata. Con tutto impianto nuovo. Con il nuovo impianto. Battesimo del nuovo impianto. Nuovo impianto per la Svolta. Autocostruito appunto dalla Svolta, che lo lanceranno per il compleanno. Venitevi a sentire la resa del nuovo impianto. Io l'ho sentito in preview e guarda, I brividi. Ne vale assolutamente la pena. E sentiamoci ora il lato B, sempre di Chris Hodge. Con We Are On Your Way, Basement Records. Come nelle partite di calcio, adesso annunciamo una sostituzione. Prog lascia il posto qui all'esordio a Radio Wombat di Gran Eco. Buonasera a tutti, ragazzi, ragazze, uomini, donne, bambini, tutti quelli che stanno ascoltando. Belli, brutti, farabutti, sì, tutti. Sì, esatto, con un braccio, con senza, cioè, che ne ha più ne mette, potremmo dire, via. Bene, con io questa... metterei il prossimo disco, che tra l'altro questo è secondo me proprio un discone, uno di quelli che nel preascolto forse uno di quelli che non conoscevo e mi è rimasto più in mente. Ah sì? Sì, lui è il grande Luther Ingram, è un artista della famosa Stax, della Stax Records. Qua si va su nomi grossi, eh sì, perché era pensato un po' la Stax a livello di soul, era la diretta concorrente della Motown, quindi insomma stiamo parlando di grossi calibri. Molto grossi calibri. Per fare un esempio di Luther Ingram, un grande successo della Stax, Respect Yourself, degli Staple Singer, era stata scritta da lui, ad esempio. Cavolo. No. Stato veramente un grande. Infatti partirei subito con il suo pezzo di più grande successo, con quello, il suo più famoso, che è If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, Luther Ingram. Bene, allora Basement Records. Andiamo, dai. Yo. Un pezzettone soul questo, davvero bello. So che sei un punk nell'anima, ma qui si scioglie anche Granejo con questi pezzi. E purtroppo c'è da dirlo, ormai sono abituato ai concerti cuore di panna. Esatto, però a ballare a nord del soul, reggae, ska, mi perdo nell'anima, potremmo dire. siamo arrivati a un livello di romanticismo veramente alto qua dentro. Tra l'altro questo pezzo qua è stato anche forse sicuramente il suo più grande successo, che è stato numero uno nella classifica Rhythm and Blues nel 72, e anche è riuscito a raggiungere il gradino più basso del podio nella classifica generalista, sempre lì del 1972. Tra l'altro, sempre per ritornare anche prima a queste chicche Northern Soul, per fare un po' di concorrenza a, certo, Soul Time, sarebbe bene ricordare che Luther Ingram è stato un altro di quelli che ha fatto uno dei famosi dischi di cui coprivano le etichette per non farne sapere il nome. Ah. Era Exus Track. È stato una vera hit nelle discoteche, appunto, del nord dell'Inghilterra. Bella roba. Io a questo punto, per continuare questa atmosfera zuccherosa, farei sentire anche il lato B del singolo di Luther Ingram, perché anche questo ne vale veramente la pena, sempre un grandissimo sound classico della Stax di quel periodo, degli inizi degli anni 70. Luther Ingram, Putting Game Down. Con la tua conoscenza mi metto nelle tue mani. Buon ascolto. So sick you can't be grieved. No, no, no. You ain't tough, you can be shot down. 'Cause when you come to putting your game on me, you got to be putting game down. I know you're the hippest and the hippest set, 'cause you whooped your thing on me. Switching and talking trash. Oh, yeah. Sock your game to me. Questo era il sound di Memphis, della Stax Records, di Luther Ingram. Che alla fine vi è venuto il piede ballerino, eh? Dite la verità. Per forza, come ti fanno? Te lo devi mozzare per non fartelo venire ballerino, dai. Esatto. Ma oltre il piede ballerino, io andrei su un genere che alla fine di Piede Ballerino c'è veramente poco, e cui si parla di un gruppo grosso, ma veramente grosso, Direi abbastanza conosciuto, esatto, che se non conoscono i vostri figlioli, i vostri nipoti, gli dovete fare una bella lezione di musica, perché no, se non dovete essere pesantemente sanzionati se i vostri figli non conoscono i Rolling Stone, ma dove l'avete fatti vivere, in una campana di vetro? Esatto, gli avete fatto sentire solo Gigi D'Alessio, gli avete forato le orecchie, gli avete sfondato i timpani con un ferro, come mai non conoscono? Vabbè, sta calmo, non esageriamo, via. Non mi fate infiammare. Che fra l'altro loro hanno suonato a Lucca di recente, no? Tra l'altro, sì. Che sì. Infatti c'è stato anche un bel casino per la questione dei biglietti. Se non erro, all'inizio l'avevano messo a 30 euro per un certo limite, no? Sì, a 30 euro quanto ci sono rimasti? Due secondi? Tipo c'era scritto proprio sul giornale, se non erro, un'oretta / due, sono finiti, poi sono andati ad aumentare dai 100 fino ai 250, per dire. Però i Rolling Stones è una passione per tutti, quindi la gente ci è andata e si è divertita anche, quello sicuro. Se purtroppo potremmo dire, nella maggior parte dei concerti di alto livello la gente preferisce riprendere più con il telefono tutto il concerto, e invece che guardarsi il concerto dal vivo. Esatto, che poi disturba anche le persone che stanno dietro di loro, ma naturalmente loro se ne fregano talmente, si tengono un video che potrebbero naturalmente goderselo su YouTube, perché gli organizzatori di questi eventi ce l'hanno. Però li vorrei vedere a riprendere, a fare il video di un concerto OI mentre mentre ti arrivano le scarpate in bocca e le persone che ti volano nella schiena. Provatela a fare a un concerto OI o hardcore. Voi provateci, poi vediamo se uscite vivi. Vabbè, dai, sentiamoci intanto questo grande successo dei Rolling Stone, e poi vi racconteremo anche una storiellina su questo pezzo, che ovviamente è Honky Tonk Woman, che è un pezzo uscito nel 69, se non erro, giusto? Dimmi se mi sbaglio. 1969, esatto. Attraverso Mick Taylor, che quando entrò ufficialmente a far parte dei Rolling Stones, esatto, che andò a sostituire momentaneamente Brian Jones che ce l'aveva un attimino alta nel frattempo. Esatto, ha avuto problemi sia droghe, alcol, psicofarmaci, diciamo di tutto di più. Sì, è proprio la vita rocker, potremmo dire, via. Sentiamoci anche allora questo pezzo, che diciamo nella storia dei Rolling Stone è stato uno spartiacque, ecco. Esatto. Dai, allora... Honky Tonk Woman, Rolling Stone, Radio Wombat. Rock. Bar of Queen Elizabeth. E questi ovviamente erano i Rolling Stone. Esatto. Honky Tonk cioè, Woman. Ogni volta che li sento, perché mi fece scoprire mio padre questo grandissimo gruppo. Bravo. È stata una gioia immensa. Non ricordo nemmeno che età avevo, ma ero molto piccolo, molto molto piccolo. Giustamente andrebbero fatte ascoltare già quando uno ancora quando uno succhia il latte, capito? Esatto, esatto. Insieme alla poppata i Rolling Stones. Esatto. Poi cambiando argomento, visto che prima si parlava di vita rockers, che in teoria sarebbe sesso, droga e musica. E quindi ci siamo presi la libertà di berci due birre qua in studio. Giustamente. La freschezza deve partire, cioè deve andare nel nostro corpo con la musica rock. E infatti questo, ritornando ai rock, questa Honky Tonk Woman, come si stava dicendo prima, è stato un grandissimo successo per i Rolling Stone nel 1969, infatti ha raggiunto il primo posto in classifica per ben 4 settimane, ma ha avuto anche la triste storia di essere il primo disco, primo singolo dei Rolling Stone senza Brian Jones, perché esatto, poco tempo dopo dell'arrivo di Mick Taylor, Brian Jones ha avuto il famoso incidente in piscina dove ci ha lasciato le penne, esatto, che ancora dopo quanti 40 anni, forse sì, sono più di 40 anni, ancora non si sa bene come siano andate le dinamiche. Sempre rimasto un mistero, però uno dei grandi misteri del rock and roll. Esatto, come una buona parte degli artisti famosi che non si sa il perché, o forse si sa il perché, muoiono improvvisamente, tipo cambio di spacciatore, tutte queste storie qua. Ma chi lo sa la verità? Se vuole, forse è morto in piscina Brian Jones, chissà come sono andate effettivamente le cose. Però volevo, anche questo era un altro disco che vi volevo far sentire, giustamente anche il lato B, perché pur sempre un 45 originale dei Rolling Stone, e quindi qualsiasi canzone ci possa essere in qualunque lato, ne vale sempre la pena di essere sentita. Che poi in special modo se nel lato B c'è You Can Always Get What You Want. Esatto, esatto. Ma volevo dire una piccola particolarità di Mick Taylor, che alla fine aveva dato anche uno sprint in più ai Rolling Stones. Sicuramente, sicuramente. Pochi lo sanno, ma lui partiva con le basi blues come chitarrista. Infatti se siete tenditori di musica, eccetera, fateci caso. C'ha delle tematiche un po' blues durante le canzoni, come suono, tutto quanto. Una cosa molto interessante. Infatti da lì ha cambiato un po' il processo dei Rolling Stones. Certo. Infatti è stato un momento di svolta, quello sicuramente, della perdita, esatto, di Brian Jones, che sicuramente avrà, a livello di idee e di sperimentazione, era molto più, diciamo, sperimentale e anche sì, di ricerca rispetto a Mick Taylor. Però Mick Taylor aveva una conoscenza e una conoscenza tecnica dello strumento che, se da un lato magari con la perdita di Brian Jones non avevano perso, sicuramente ne hanno acquistato da un altro a livello tecnico, a livello di freschezza, ma anche a livello di composizione, di riff, di tutto. Quindi è stato un cambiamento. Esatto, a questo punto mi viene in mente il famoso detto: quando muore il Papa se ne fa un altro. È un cardinale. Esatto, in questo caso. E adesso Rolling Stone su Basement Records, Radio Wombat Rock. Thank you. feet was pointless man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, Mr. Jimmy, a man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, but if you try sometime, just might find. Questa era, erano i Beatles con you can get what you want, pezzone della Madonna ovviamente, e rimarrei sempre sul solito piano, resterei sempre in periodo British Invasion. Esatto, però se non ti scoccia vorrei dire due cose sui Beatles, che alla fine... Sui Rolling Stone, però anche sui Beatles. Sì, che... Naturalmente i Beatles e i Rolling Stones c'hanno una bella differenza a livello musicale, come si sa. Proprio a livello di basi. Esatto. Poi i Beatles, c'è stato anche un piccolo particolare, che a livello politico facevano anche loro, senza saperlo. Perché una volta a un concerto... Quello soprattutto John Lennon, ovvio, era la parte più politica, ovvio. Di... del quintetto. Sì, ma pochi lo sanno la storia dei Beatles e dei cosiddetti nazi di quegli anni, che è un concerto, non ne so niente, eh? Che è un loro concerto, diciamo, era il periodo d'oro dove nasceva il razzismo, cioè dove riniziava il razzismo, potremmo dire, con la scusa della schiavitù, tutto quanto, eccetera. C'erano in giro, come ci sono tuttora ancora in America, i famosi KKK, che il Ku Klux Klan. Esatto. Gli incappucciati. Esatto, esatto, che poi a livello di moda fanno abbastanza caldo, scusate se lo dico. A parte questo, a fare dal loro concerto c'erano per appunto dei militanti KKK ad aspettarli. Con i cappucci a punta. Esatto, a protestare perché la loro musica, visto che era molto libertaria, potevano ascoltare tutti. Cioè dalle persone di Europa, America, India, Asia, Africa, tutto quanto, no? Quindi anche la gente di colore, come dicono loro. E niente, hanno fatto questa protesta contro i Beatles perché la gente di colore, fra virgolette, andava a sentire i loro concerti senza problemi, però... E non gli tornava, a... No, è successo... La gente con le fiaccole in mano questa cosa. No, esatto, cioè è successo soltanto una volta, però è finita lì, perché... La musica deve essere libera per tutti. Speriamo l'abbiano bastonati bene bene. Esatto. Per quello che non sono più tornati. E ora... Appunto, rimanendo sempre in ambito della British Invasion dell'inizio degli anni 60, Beatles, Rolling Stone, un altro gruppo fondamentale sono stati i Kings dei fratelli Davis. E appunto il prossimo disco è un singolo del 1970 dei Kings, che in questo caso è Lola. È il singolo che segna l'ingresso del tastierista John Gosling nella formazione, e tra l'altro è il singolo che farà ripartire il successo per i Kings, esatto. Perché si erano un po' fermati agli inizi degli anni 60, quando appunto avevano fatto questa rivoluzione insieme ai Rolling Stone e ai Beatles. E poi tra l'altro sono riusciti anche a far evolvere il loro suono, perché non sono rimasti nel classico, diciamo, senso più allargato del termine di pop. Poi i Kings hanno avuto anche, diciamo, questo merito di indurire il suono con riff di chitarra e dare il via anche a quello che poi sarà l'hard rock. L'hard rock, che da lì naturalmente ci sono gruppi essenziale nella vita di ognuno di noi che almeno una volta abbiamo ascoltato. Il primo che mi viene in mente dell'hard rock sono i Led Zeppelin. Esatto, e sicuramente sono stati influenzati dai Kings, esatto, essendo anche loro inglesi. Poi se vogliamo partire anche con altri nomi, gli AC/DC. Sì, che sono venuti dopo. Esatto, esatto. Sì, sì, sì, no, quella scuola che diciamo hanno un po' aperto i Kings è proprio quella lì, è la via più dura al rock, che poi sfocerà alla fine degli anni 70 con l'heavy metal. Ecco. Esatto. Esatto, e qui si può andrebbe a parlare degli Iron Maiden, gruppo eccellente dell'heavy metal. Però ritorniamo appunto al disco e ascoltiamoci questo singolo del 1970, sempre rigorosamente su vinile, che è Lola dei Kings, che segna l'ingresso appunto del tastierista Gosling dentro la formazione. Lola dei Kings, Radio Wombat. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name, and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight she nearly broke my spine. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman but talk like a man. Oh my Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, we drank champagne and danced all night. Direi che l'hard rock qui aveva ancora da arrivare, molto, nel 1970. Molto, molto. Infatti questo pezzo mi ha fatto ricordare vagamente il genere country. più che hard rock, esatto. Direi la svolta hard rock della... Esatto. Lo sai qual è il bello del country, no? Che molti... I cappelloni? Sì. E gli stivaloni? A parte quello, ma quando sono stato in America, ti parlo 5 anni fa, in Florida, parlando con la gente di lì e tutto quanto, sono riuscito a capire che il country non è soltanto un genere musicale, ma è anche una sottospecie di vecchiettini del paese. Quelli che stanno al bar e che vogliono raccontare vecchie storie. E invece il country parla proprio di vere storie che sono accadute e non sono inventate, e raccontano attraverso la musica. Quindi mi viene in mente Johnny Cash, ad esempio. Esatto, che è un nome, esatto, che mi fai venire in mente con questa storia. Esatto, ecco. Esatto, Johnny Cash, grandissimo, grandissimo, davvero. Passiamo al prossimo disco. Anche questo è... un 45 del 1969 e sono i Three Dogs Night, che sono una band australiana che prende il suo nome da una tipica frase in dialetto australiano che sta a significare del freddo che fa, della differenza termica che fa nella notte. E infatti la notte dei tre cani è perché magari da quanto fa freddo in alcuni posti dell'Australia la notte ci sono solo tre cani in giro. Esatto. A parte, sai, si sa, l'Australia non è terra, diciamo, di esseri umani, ma dei canguri. E fondamentalmente i Three Dogs Night erano una band di cover, perché rifacevano a modo loro pezzi di altri artisti. E mi viene in mente che, ne so, hanno rifatto anche Elton John, Randy Newman, Oi Texton. E il pezzo che ci andremo a sentire a brevissimo è Elise Coming, che è un pezzo di Laura Nyro, che è una cantatrice americana molto famosa della fine degli anni 60, degli inizi degli anni 70. E questa appunto è la loro versione di Elise Coming di Laura Nyro. Ascoltiamo. E questi sono i Three Dogs Night su Radio Wombat, Basement Records. Facci venire i brividi. Questi erano i Three Dogs Night. Gran tiro questa Elise Coming. Molto, di Laura Nyro. Veramente assai carina, potremmo dire, come canzone. Veramente carina. Gustosa. Ecco, esatto. Sarebbe una canzone proprio da ascoltare nei momenti più felici, che tipo torni a casa, ti è andata bene la giornata, hai preso il caffè del buongiornissimo, potremmo dire. E ti piazzi questo bel vinilino sul piatto e te lo spari. con una bella birra lì davanti, ghiacciata totalmente, perché non siamo dei punk che vanno sotto i ponti ad agosto e prendono 40 peroni se bevono con i cadò. 40 peroni a 40 gradi, esatto. A 40 gradi, tutta questione di numeri, ragazzi. Certo, a seconda di quant'è la gradazione della temperatura si prende la giusta quantità. E adesso farei anche sentire il lato B di questo 45, è una versione di quelle da jukebox. Esatto. E quindi su un lato ha una canzone, sull'altro lato ne ha un'altra, che in questo caso sono gli Smith. Da non confondere con gli Smiths di Morrissey. Esatto. Che non sono proprio esattamente la stessa cosa, perché gli Smith di questo caso sono una band californiana della fine degli anni 60. Questo è un pezzo del 1969 e loro erano saliti alla ribalta delle cronache perché avevano avuto un paio di anni, anzi no, quello stesso, l'anno precedente, nel 1968, avevano avuto un grande successo con una cover del grande Burt Bacharach, grandissimo, che era Baby It's You, e erano riusciti a raggiungere anche delle buone posizioni nelle classifiche americane. E questo invece è il loro singolo del 1970, che è appunto è sempre questo, no? Esatto. Mi stavo sbagliando io, è proprio in questo caso è Baby It's You, la cover di Burt Bacharach rifatta appunto dai californiani Smiths. Esatto. Andiamocene a sentire. Radio Wombat. Questi erano gli Smith, appunto, nella loro cover di Baby It's You di Burt Bacharach. Posso dire una cosa di questo pezzo? Mi ha catturato molto la voce. Una cosa veramente incredibile. Non so nemmeno descriverla. Cioè, veramente una voce che mi ha catturato proprio. E se proprio vuoi saperlo, è di Gail McCormick. Ah. Quindi te la puoi andare anche a ricercare. Perché no? Almeno gran voce la sua. È un pezzo, infatti, mi era rimasto impresso. Lo volevo far sentire. Valeva la pena sia il lato A che il lato B di questo 45 da jukebox. I jukebox ne sono, li può perdere nell'anima, però questa voce rimane sempre nel mio capo. Lo posso dire, lo posso assicurare. Allora dovrai fare una full immersion nei prossimi giorni, se la metti così la prossima ti interrogo. Esatto. Vediamo se riuscirei a prendere un bel sufficiente, perlomeno, via. Ne sono certo. E a questo punto direi che l'ora è giunta, esatto, per questa puntata di Basement Records, che in via speciale, ma non so quanto, oggi è andata in onda di sabato sera. Pensavo di alternare nelle prossime settimane una puntata di Basement Records con Tonight Alive e viceversa, e però chi lo sa che evoluzioni potrà prendere la programmazione, se poi un giorno questa trasmissione potrà avere uno spazio fisso. Esatto. Sulla nostra radio. Esatto. E guarderemo di trovargli una collocazione fissa. Però per adesso l'appuntamento è probabilmente tra un paio di settimane, o chissà se forse settimana prossima potrebbe regalarci una sorpresa, non si sa ancora. To be confirmed, come si dice, esatto, come si dice in esatto, inglese, staremo a vedere. E quindi per ora non vi posso che augurare una buona prosecuzione del sabato sera. Divertitevi, fate i bravi, fate all'amore e bridate a Radio Wombat. E sempre ascoltate Radio Wombat. Sempre, sempre, sempre. Anche quando dormite dovete avere le cuffie dentro le orecchie, se no non siete veri fan di Radio Wombat. Buon sabato sera, ragazzi. Cheers. Cheers.